Capitolo 30. Il pinguino si avvicina curioso, nella speranza che la ragazza gli lanci del cibo. I suoi compari lo imitano, si spingono l'un l'altro inutilmente, dato che lei non ha nulla da dare, e comunque un cartello proibisce di gettare alimenti agli animali. Bogdanov si scosta un poco, disgustato dal fetore di pesce marcio che emana dalle bestie. Danny invece pare rapita. «Sono uccelli?» «Sì, ma non volano. Nuotano. Usano le ali come pinne.» Bogdanov consulta l'orologio. «Vieni!» Proseguono per il vialetto. A quell'ora del mattino, il parco zoologico è semideserto. Una nonna porta a spasso i nipoti. L'andatura dei piccoli imbacuccati ricorda i pinguini. Due inservienti, sigaretta in bocca, puliscono i recinti e spazzano via dal viale le foglie fradice di neve. Il freddo sulla faccia non dà fastidio. Camminare è piacevole. Passano sotto uno striscione che ricorda l'appuntamento per il decennale, l'indomani sulla Piazza Rossa. Eppure, in quest'angolo di Mosca è come essere altrove, sospesi in un'atmosfera rarefatta, a eccezione di qualche richiamo d'anatra in lontananza. Quando Danny ha saputo che lui andava lì, ha voluto accompagnarlo a tutti i costi. Voleva vedere uno zoo, dove tenete in gabbia gli animali per guardarli. Natalia ha consentito. Prendere un po' d'aria le farà bene. La ragazza però conserva intatto il suo pallore, o è il colore burneo della pelle a farla somigliare a una statua di porcellana. Bogdanov osserva il suo stupore davanti alla gabbia dei pappagalli, intirizziti sui loro trespoli. Poco oltre, le bertucce si avvicinano in cerca di cibo, allungano le mani tra le sbarre, mani piccolissime, umane. Proseguono così fino al luogo dell'appuntamento. Una conca circolare si apre 3 metri più sotto. Un orso polare dorme stravaccato su una roccia piatta. Quando si affacciano, apre appena un occhio, poi l'altro, odorando l'aria. Ha il pelo sporco e sfilacciato sotto la pancia, l'aria annoiata. Danny si avvicina alla recinzione e dice qualcosa, rivolta alla belva. «Su una conna parlate davvero agli animali?» chiede Bogdanov, sforzandosi di non mettere ironia nella domanda. «Lo fate anche qui?» risponde lei. «Ho visto persone parlare ai cani e ai gatti, anche ai cavalli.» «Parliamo con gli animali domestici», obietta lui, divertito. «Con quelli selvatici riteniamo sia tempo perso.» Danny osserva Bogdanov come se volesse sincerarsi di ciò che ha appena sentito. «Quest'orso non è selvatico, è chiuso qui dentro, e tutti i giorni della sua vita vede soltanto persone che lo guardano.» Le sue obiezioni seguono sempre una logica. «Ciò nonostante non è addomesticabile», ribatte Bogdanov. «Gli orsi bruni lo sono, ma non quelli bianchi, che io sappia.» La replica di Danny non si fa attendere. «Allora dovreste riportarlo nel luogo dove è nato e cresciuto.» Ancora la logica anacuniana. «E se fosse nato qui allo zoo?» le chiede. «Forse lui, il Polo Nord, non l'ha mai visto.» Danny legge il cartello. «È qui da 15 anni, da prima della rivoluzione. Avete abolito lo zar e non avete smantellato questo.» Con un gesto indica le gabbie e i viali alberati. «Sono tante le cose che ancora non abbiamo smantellato», ribatte Bogdanov. «Una volta mi hai detto che una rivoluzione non basta, ce ne vogliono 100. È così. Una rivoluzione può fondare nuove istituzioni, mettere i mezzi di produzione nelle mani dei lavoratori. Cambiare la testa delle persone è un processo molto più lento. È una rivoluzione più profonda, capisci? Avere spodestato lo zar non significa che lo zar non ci sia più. In un certo senso c'è ancora.» Porta un dito alla fronte. «È qui, nella nostra testa. Un giorno la coscienza dei lavoratori arriverà a un tale grado di sviluppo che non avremo più bisogno di un piccolo padre. Un giorno arriveremo a capire quello che per te è scontato.» Bogdanov indica l'orso sotto di loro. «E magari libereremo anche lui.» Danny ha ascoltato senza battere ciglio e rimane cogitabonda, appoggiata al parapetto, reggendosi il mento in una posa troppo umana. Poi si allontana, camminando sul bordo della conca. Il dubbio le rimane sulla faccia, e questo è un ottimo segno. Qualcosa che potrebbe perfino riempirlo di orgoglio, come se Danny fosse la figlia che non ha mai avuto. I nostri sforzi non sono stati vani. Bogdanov sente la propria voce raggiungerlo da lontano e riportarlo indietro. Quando lui e l'uomo che sta aspettando lanciarono il movimento per una cultura proletaria. Prolet Cult. I nostri sforzi non sono stati vani. Lunacharsky disse che si trattava di realizzare quello che avevano sempre sostenuto, un movimento autonomo dal partito, per rendere culturalmente autonoma la classe lavoratrice. Il proletariato doveva fondare una nuova moralità, una nuova politica, una nuova arte, spazzare via le vecchie gerarchie, una sfida al secolo. Del movimento avrebbero fatto parte le varie anime della rivoluzione. I bolscevichi in maggioranza, certo, ma anche i menscevichi, socialisti rivoluzionari, anarchici, oltre a tanti cani sciolti. Nei primi mesi del 1918 la Russia era sotto assedio. L'incendio divampava. «E voi parlate di cultura?» sbraitava qualcuno. «Imbracciate un fucile, piuttosto, o una zappa!» No, no, la scala delle priorità andava capovolta. Non bastava che i lavoratori si impadronissero dei mezzi di produzione. Serviva un movimento di massa che faccia cosa? Quanto ne discussero e con quanto accanimento. Noi affermiamo che il proletariato deve creare forme socialiste di pensiero, di sentimento e di vita quotidiana, indipendentemente dai rapporti e dalle alleanze con altre classi, siano esse contadine o piccolo borghesi. Ma cosa farne della cultura del vecchio mondo? I grandi geni hanno sempre lottato per la libertà creativa, contro le richieste dei loro mecenati e la censura delle classi dominanti. Per questo Shakespeare, Pushkin, Dante non sono della borghesia o dei feudatari, ma nostri. La risposta di Lunacharsky, l'equanime. E cosa farsene degli intellettuali? Se un operaio scrive romanzi e smette di lavorare in fabbrica, non per questo si allontana dalla massa. Se invece si lascia sedurre dai privilegi e dal potere, la sua non è più cultura proletaria. Era la voce di un giovane colletto bianco di una fabbrica di Odessa che rivendicava la propria appartenenza di classe, anche se usava una macchina da scrivere, anziché una chiave inglese, e le sue mani non erano sporche di grasso ma di inchiostro. Sulla cresta dell'onda rivoluzionaria, in mezzo al fischiare dei proiettili, ci si chiedeva quale fosse la funzione dell'arte. L'arte non è una decorazione. Come la scienza, serve a organizzare le esperienze, ma a differenza della scienza, non usa concetti astratti, usa immagini vive. L'arte collettivista evoca le connessioni del mondo che l'individualista non vede. Esalta l'unione contro la distruzione, il collettivo delle stelle che lotta contro la notte, e non per forza la vita proletaria, gli operai al lavoro e la lotta di classe. La propria voce, irriconoscibile, che tornava a essere stentorea come prima della guerra, mentre nascevano circoli del prolet cult in ogni angolo dell'Unione, dediti all'alfabetizzazione dei lavoratori, corsi di poesia, teatro, musica, seminari sulla letteratura. 500.000 di aderenti in soli 2 anni. Pochi meno del partito, ribattezzato comunista, e fuori dal suo controllo. Era la dimostrazione che il prolet cult interpretava un'esigenza concreta. Prolet cult era il divenire, era lo spostamento del punto di vista, il movimento che cambia il modo di organizzare l'esperienza del mondo, cioè la realtà. Il passo successivo fu l'Università Proletaria di Mosca. Lui stesso pronunciò il discorso di inaugurazione. Disse che gli esperimenti delle scuole di Capri e di Bologna trovavano compimento. I nostri sforzi non sono stati vani. Non lo erano stati, no. Una lunga battaglia contro tutto e tutti. E adesso, finalmente, avevano un ateneo dove gli studenti partecipavano alla programmazione degli studi, dove la separazione tra lavoro intellettuale e manuale veniva ricomposta, dove insegnare e apprendere si fondevano in un'unica attività creativa. Occorre abbandonare il feticismo del capo, della gerarchia del potere, e così sbarazzarsi dell'autoritarismo, ostacolo alla conoscenza. Arrivarono a contare 450 studenti, disposti a praticare un inedito modo di studiare, di tipo cooperativo e non competitivo. Mandare all'università gli operai e i contadini non basta. Questo è soltanto l'obiettivo minimo. Il vero obiettivo è il cambiamento di sé. Convocarono un congresso, con tanto di delegati stranieri, per lanciare l'internazionale del movimento. Accanto al Comintern sarebbe sorto il Kultintern. Fu allora che Lenin decise che poteva bastare. Nel 1920 ripubblicò Materialismo ed Empiriocriticismo, con una nuova prefazione, le cui righe conclusive suonavano come una sentenza. Bogdanov diffonde, in veste di cultura proletaria, concezioni borghesi e reazionarie. Il secondo attacco, se possibile, fu più violento di quello di 10 anni prima, perché non si trattava più di un conflitto filosofico. Per Lenin, il Proletkult era un movimento guidato da intellettuali utopisti borghesi, alla base del quale c'era il relativismo cognitivo di una corrente minoritaria della filosofia che riproponeva l'idealismo e il volontarismo. Un movimento che si prefiggeva la creazione di una cultura proletaria, come se la cultura si potesse inventare anziché apprendere. Il proletariato aveva invece bisogno di apprendere, di conoscere, per ribaltare i rapporti di forza nella società e afferrare le redini della società stessa. Io dichiaro la mia più totale avversità verso i miscugli intellettualistici e le cosiddette culture proletarie. Non era il fermento culturale a preoccupare Vladimir Ilich. Ciò che non poteva accettare era l'influenza bogdanoviana su 500.000 di lavoratori. Lo vedeva ancora come un corruttore del materialismo dialettico, un pericoloso untore antimarxista. Sotto le bordate di Lenin, l'entusiasmo, che era nato intorno al movimento, virò verso l'incertezza. Il governo impose al commissariato dell'istruzione di tagliare i fondi al Proletkult, per poi inglobarlo. Il commissario Lunacharsky accettò il compromesso. «Perché non varrà tutto perso? Devi ammetterlo, Sasha, il movimento è disorganico e dispersivo. Si tratta di organizzarlo e strutturarlo meglio. Applichiamo un principio tecnologico, dovresti compiacertene». «Chissà, se ci credeva davvero», si chiese, mentre veniva estromesso dal comitato centrale del Proletkult. Non sarebbe rimasto lì a vedere il movimento ricondotto all'ovile dello Stato e del partito. Preferì cogliere l'occasione della missione commerciale a Londra di Krasin e cambiare aria. «A te gli affari, a me i libri», gli disse. E poiché dagli affari discende la politica, di lì a pochi anni Krasin si sarebbe impegnato a far riconoscere dal governo di Sua Maestà quello dell'Unione Sovietica e sarebbe morto proprio a Londra. E nonostante fosse convinto che la scienza un giorno avrebbe risuscitato i cadaveri congelati, venne cremato per poter essere trasportato a Mosca con agio. Bogdanov ha assistito alla tumulazione delle ceneri sotto le mura del Cremlino, afflitto dall'amarezza quanto dal senso di perdita. Krasin era uno degli ultimi compagni dei tempi dell'esilio che ancora rispettasse. Ma come tutti loro, aveva fatto il suo tempo. E che tempo, che grande vita, ben pochi rimpianti. In quel momento una voce nota, che non viene dal passato, lo raggiunge da presso. «Buongiorno, Sasha!» Lunacharsky lo affianca sul bordo della conca. Lui risponde con un cenno del capo e l'altro gli porge un sacchetto di carta. «Ceci tostati!» «No, grazie!» Il commissario del popolo per l'istruzione ha l'aria stanca e una nuova ruga sulla fronte. Poco discosti, 3 militari giovani e ben piantati, avvolti nei loro pastrani col fucile in spalla. Sono le guardie del corpo del ministro. Fumano distratti, parlottando tra loro. «Perdona il ritardo», dice Lunacharsky. «I preparativi per domani...» «Posso immaginare», commenta Bogdanov. «Il grande giorno». Lunacharsky sospira, poi ingoia un cece secco che però gli va di traverso e scatena un attacco di tosse. Bogdanov gli batte la mano sulla schiena finché quello non torna a respirare, mentre i 2 soldati si avvicinano con vaga apprensione. Il ministro si ricompone, il viso ancora paonazzo. Poi scaglia con rabbia il sacchetto dentro la conca dell'orso. «Tieni!» dice rivolto all'animale. «Mangiateli tu!» Danny richiama la sua attenzione. «È proibito dare cibo agli animali!» Lunacharsky, interdetto, si rivolge a voce bassa a Bogdanov. «Chi è?» «Una mia paziente, un caso clinico di cui mi sto occupando». Si allontana di qualche passo. «Andiamo un poco più in là». Lunacharsky fa un cenno ai militari e lo segue sotto i rami spogli di un albero che grondano umidità sulle tese dei loro cappelli, producendo un ticchettio morbido. A pochi metri, 2 scimpanzé li osservano annoiati da dietro le sbarre. Uno sembra più anziano, ha il pelo grigiastro e tiene un braccio sulle spalle di quello giovane, che lo sostiene come farebbe un figlio con il genitore. «Potevi darmi appuntamento in un caffè», dice Bogdanov. «Saremmo stati più comodi». «Qui ci ascoltano soltanto le scimmie». Bogdanov indica i 3 soldati. «Loro non ascoltano di sicuro», replica Lunacharsky. Oltre i rami contorti c'è un laghetto ghiacciato. Alcune oche grigie passeggiano sulla superficie opaca, in fila come soldati. L'ultima scivola ogni 3 passi, una cadenza regolare. Bogdanov prova una profonda empatia deve essere l'influsso di Danny. «Vuoi consigliarmi di restare a casa domani?» chiede con una punta di sarcasmo nella voce. «Anche se ho dei pessimi presentimenti, certo, non ti consiglierò di mancare alle celebrazioni», risponde l'altro. «Ho voluto vederti per una cosa che mi è stata detta qualche giorno fa. Riguarda te e non mi fa stare tranquillo». La solita, irritante premura di Luna Charsky, figlia del senso di colpa che non l'ha mai abbandonato per essere stato il più morbido, il più conciliante dei due. Il ministro è corrucciato oppure lo disturba il riverbero della luce sul ghiaccio. «Nei corridoi del Cremlino ho incontrato Menzhisky. Mi ha accennato a te. Mi ha detto: il tuo amico Bogdanov farebbe meglio a fare il medico». Un avvertimento senza senso, per uno che negli ultimi 4 anni ha fatto proprio quello, il medico. «Tutto qui?» L'espressione di Luna Charsky gli smorza le parole in bocca. La ruga sulla fronte si è fatta più profonda. Se il capo della GPU lascia cadere un'osservazione del genere, è per un motivo. Non prenderla alla leggera. Di cosa ti stai occupando al momento? L'occhiata di Bogdanov a Danny lo tradisce. Luna Charsky individua la ragazza. «Lei? Cosa c'entra?» «Te l'ho detto», risponde Bogdanov. «È un caso che mi sono preso a cuore. Credo sia la figlia di un vecchio compagno dei tempi dell'esilio. Non ne sono certo, ma tutti gli indizi lo suggeriscono. Cerco di scoprire se è ancora vivo». Luna Charsky pare ripetersi mentalmente ciò che ha appena sentito. «Chi sarebbe suo padre?» Bogdanov esita prima di rispondere. Cerca le oche, ma invano. Il laghetto è deserto. «Leonid Volokh, te lo ricordi?» Il ministro torna a osservare la ragazza, come per scovare una somiglianza. «Sì, era dei nostri. Credo di averlo incontrato su un tram, un paio d'anni fa, qui a Mosca». Un brivido. «Gli hai parlato?» «Stavo per farlo, ma lui è sceso troppo in fretta». «Sei sicuro che fosse lui?» Luna Charsky si stringe nelle spalle, avvolte dal cappotto. «Era passato un bel pezzo dall'ultima volta che l'avevo visto. Eravamo in Italia». Bogdanov non si trattiene. «Ti dice niente il nome Igor Pashin?» «No, dovrebbe?» Qualche passo avanti e indietro per aiutare i pensieri a circolare. «La ricerca mi ha portato a questo Pashin. Sono stato a casa sua e quando mi ha visto è scappato. Il mio assistente all'istituto era con me e dice che deve averci presi per poliziotti». Il volto di Luna Charsky si distende per un attimo. «Un oppositore. Questo spiegherebbe l'avvertimento di Menzhisky. Devi aver dato l'impressione di cercare un contatto con l'opposizione». «È ridicolo», ribatte Bogdanov. «Ho abbandonato la politica e Menzhisky dovrebbe sapere bene cosa Trotsky pensa di me». «Questo non significa niente», lo interrompe Luna Charsky. «Trotsky adesso sta con Kamenev e Zinoviev, che fino a ieri lo denigravano. Le alleanze cambiano. Non ti meravigliare che Menzhisky ti mandi un avvertimento tramite me». L'ironia grottesca della cosa è evidente quanto irritante. «In nome dei vecchi tempi, suppongo», sibila Bogdanov. «Ognuno di noi ha i suoi buoni motivi per fare quello che fa», risponde Luna Charsky. Per un po' restano zitti, ascoltando il battere delle gocce sui cappelli di feltro. Un curioso orologio naturale. È ancora il ministro a dare voce ai pensieri. «L'opposizione fallirà. Non perché non abbia la sua parte di ragione, ma la gente vuole pace e sicurezza, ed è quello che offre Stalin». Con un gesto imperioso rafforza le parole. «Sconfiggerà Trotsky e gli altri, dopodiché realizzerà molte delle loro proposte, vedrai, e potrà vantarsene». «Tu resterai sul carro del vincitore?» La domanda non è provocatoria, non ce n'è più bisogno. Un ghigno amaro storpia l'espressione professorale di Luna Charsky. «Tra non molto metteranno da parte anche me, vedrai. Allora mi dedicherò soltanto alla critica letteraria». Bogdanov tace. Ha perso di vista Danny. Poi la rintraccia, vicino alle sbarre di una grande gabbia. Invita l'altro a raggiungerla, ma Luna Charsky si trattiene. «Adesso devo salutarti. I preparativi per domani incombono». Si stringono la mano. Bogdanov osserva l'amico allontanarsi, dinoccolato, in compagnia dei suoi guardiani, più bassi di lui e molto meno eleganti. Quindi raggiunge Danny alla gabbia della tigre siberiana. Il grande felino è mezzo nascosto dietro alle rocce. Insieme si incamminano verso l'uscita principale, sulla quale campeggia la scritta «Zoo Park». Mentre escono, Danny estrae qualcosa da una tasca del vecchio pastrano. Una veloce macchia bianca. Rumore di carta. Il sacchetto di ceci. Bogdanov deglutisce. Deve aspettare qualche decina di passi per aprire bocca. Ti rendi conto che l'orso poteva sbranarti? Avrebbe avuto le sue buone ragioni, non credi? Eppure non l'ha fatto. Ne vuoi uno? Gli porge il sacchetto e questa volta lui accetta l'offerta.